Io mi chiamo Natalino Togni, sono nato nel 40 di dicembre, 23 del 12 1940, per la precisione. Così io mangio una torta all'anno, perché faccio Natale, compleanno e onomastico. Qui dove siamo noi c'era lo stabilimento della Caproni, poi chiamata Aeromere, poi Urth e poi Carmelini che faceva tubi di plastica. Poi hanno chiuso tutto, che Carmelini è andato alle grazie e qui hanno abbattuto e hanno fatto il parcheggio e tutta la zona qui insomma questa. Ecco. Io posso raccontare quello che posso perché abitavo qui di dietro. Avevamo il frantoio dell'olio, eravamo contadini, qui era una zona produttiva, questa qui era, perché qui alla Caproni, non so, ma c'erano circa un centinaio di operai, anche gli anni 50. E quando che l'era le 1:15, là il ponte era sempre pieno di operai così, perché fa la pausa, noi andava a disnare e gli veniva e si metteva là e prima di venire a lavorare gli faceva la pausa lì, se la conteva. Quel mi ricordo che era la roba che ti vedevi venire tutti con la bicicletta e me ne sta la roba un po' impressa quella lì, di vedere tutti questi putei, sta che era là e si faceva una bella conversazione. E dopo gli veniva e gli metteva dentro a lavorare, però non è che gli si fermava davanti sul cancello che stiva là il ponte. Il ponte era il centro della raccolta, che era una vita, le vera, come chi ne via dopo con la Urth, le stazza differente, perché veniva con le macchine, poi veniva dentro, gli aveva fatto il parcheggio, ma allora che erano le biciclette, e qui che era De Arco, gli veniva qualche linea a pè, ma gli era tutti in bicicletta allora, allora gli veniva là, tac! L'entrata era là, della Caproni, e noi eravamo fra le due case lì dalla parte lì. Qui si utilizzavano macchine industriali come torni, frese, cose Sì, così. c'era quella roba lì, qui lavoravano i pezzi che venivano da Trento, là facevano le fusioni, quando è nato il capriolo, anche perché c'era il famoso capriolo a un certo punto, prima lavoravano per gli aerei, Caproni è nato con gli aerei in effetti, no? Invece dietro qua c'era un Ecco, frantoio. là c'era il frantoio che avevamo noi. Il frantoio andava con l'acqua, perché c'era anche la fitta là, che c'è ancora, adesso la chiudono quest'anno, no? E con l'acqua, siccome noi eravamo più bassi, ci faceva il salto dell'acqua, faceva andare la turbina e ci facevamo anche la corrente per la notte, però il frantoio andava con la forza della turbina. Nel 60 hanno chiuso le acque perché l'Enel ha detto in quegli anni lì, adesso possono fare la corrente tutti, allora in quegli anni lì aveva il dominio l'Enel, allora hanno incanalate tutte le fitte, qualcuno è rimasta la concessione perché l'acqua la risfruttavano, ma siccome noi la scaricavamo nella sarca perché eravamo più bassi, basta, allora noi ce l'hanno tolta e allora l'abbiamo chiuso perché ne hanno messi insieme altri due, uno qui in Piazza Italia del Marcabruni e Gino Bertamini a Vignole. Però quegli anni lì, fino al 60, ecco, noi avevamo il frantoio e qui c'era la Caproni, che c'era un bel movimento, perché non c'era neanche il campeggio, l'hanno fatta dopo la strada che va su, che continua qui per andare a Prabi. In fondo alla discesa che c'era una volta più ripida, c'era anche il mulino dei Trenti. Loro sono rimasti lì fino al 55. Allora il contadino era così e aveva tutto sotto che di roba, che aveva le patate, che aveva formenti, che aveva il zaido, che aveva un po' di vigne, insomma era una roba che era così. Dopo gli anni del boom, il boom mi ha portato che non si poteva più perché chi il frumento allora di luglio andava lì a batterlo fuori a mamma, sappiate che le cote che era tremende, no? Perché le macchine qui a quegli anni lì non erano ancora da cultura proprio, che erano le piccole facciatrici, però non è come adesso, a parte il fatto che erano gli appezzamenti piccoli più che altro, anche per una macchina, adesso che delle aziende grosse, però legate a tanta campagna unita, via fare la monocoltura più che altro adesso, no? Perché ai pomi, ai vigne e pomi, pensi allora che era proprio come Arco, Arco, una volta che erano tutti i portichi, dopo che era dentro il caret, era dentro la vacca, era dentro il cavallo, il bo, ecco che era un po' quella roba lì allora, dopo sa cambiare il mondo, mi ha fatto il parcheggio perché io ho più tante macchine, ho più tanta roba, allora se andiamo a pè, bicicletta, poi corretta a mamma. Com'era la vita al torch? Quando si faceva la molitura? Bel lavoro l'era. Quando lavorevi normale, ti inviavi la mattina alle 5, ti inviavi a Masnar, che voleva un'ora a Masnarla. Quando voleva Masnada, se la mettevano delle prese, e un'oretta circa a struccarla, e dopo mezz'oretta l'era passata fuori e avanti, così. E era un lavoro che nel giro di un'ora e mezza si faceva tre quintali, due e mezzo, tre, conforme l'oliva, se l'era abbastanza morbida da masnar o se l'era un po' dura, perché era quel problema lì, se era oliva dura bisogna masnarla bella, che la venisse fina, proprio una pasta bella omogenea. Far l'oliva era un'armoniosità di gente. Se il vecchio potesse, perché a volte il vecchio è strac, e Zoe e sapesse come fare a fare una batteria mia da smartellare su di te, capì come l'è l'esperienza, la somma se la batte tanto lei calda. Insomma, così ha confermato che in quegli anni non si batteva la fiacca, in pratica. Lavoro sodo e alla fine anche il tempo. No, guerra l'agitazione. No, guerra l'agitazione. Se feva fatica perché le macchine le erano poche e allora bisognava droppare le mamme e le gambe e la schiena. Però quando ti sei, ma non perché ti eri stracco, perché se si trovava qualche duni magari lì da far docciacere, se le feva senza dire che ora è. Ecco, l'era quello. Guerra alla tranquillità. Si ricorda nel complesso, nel comune di Arco, quanti frantoi c'erano? Con quegli anni lì, chi era? Noi, il Calzac, che era lì di fronte a Vivaldelli, il Trenti, che era zona via Santa Caterina, e Zanfranceschi, che era alla Pasina, e il Guernati, che era a Varignan. Dopo la pianta come Benigni a Sant'Alessandro, ma quella è la pianta, qui lì era proprio roba degli anni 50, 40, e il Sega, il Sega al Varon, la 60 quelli. In quegli anni lì che erano noi, sei eravamo in quegli anni lì, proprio di piena produzione. Se scominciava da Sant'Andrea, più o meno i primi di dicembre, no? Perché l'oliva allora se la toleva a Zotardi. Non è come adesso che va ancora ai mesi di ottobre, no? Perché noi la tolleranzo e guardavamo che la fus più matura che si poteva. E la teniva anche a casa, che la veniva pusciuta, perché così ti pagava di meno perché l'era più lisera. E noi lo rendeva di più, però. Mi ricordo che loro diga a tutti quei chi vuole adesso, i tecnici, io non voglio andare contro nessuno, però l'olio che feve noi allora l'era più buono. Quando veniva fuori dal separatore, perché se masneva l'oliva, se la torceva e dopo se la faceva passare dal filtro, dal separatore, dal centrifugo, all'era, no? E veniva fuori bel caldo, perché noi gli mettevamo un po' di acqua calda perché si distaccava più bene dalle acque, perché l'oliva aveva acqua e olio oltre alla salsa. E veniva lì con un tocchettino di pan fresco e ci aveva questo olio caldo ed era una colazione, un aperitivo, quel lì che era meno più sentito l'olio che ha quei sapori lì. Dopo i garri sono loro perché gli dice che il verde la ga, comunque era. Ecco, i primi di dicembre e si lavorava, però il colpo del lavoro era sempre sotto le feste del Natale, prima dell'Am, fin maidese di Genere, era proprio lavorare giorno e notte. Se no si faceva due turni magari dal dì, ma i colpi lì si laurea di e no. E dopo che quando sono venuto grandello, a 15 anni, mi cominciava, prima noi ne la porteva, ma dopo mi via a dire, ma te puoi finire una torla per un'altra, e allora due dì alla settimana o tre, feo il giro di tutti i paesi, di Bologna, Vignole, Masson, Ancadrò, E andavo su e carichevo il mio carrette di oliva e venivo a casa, però era bello, perché era anche a memoria. Mi non è che scrivevo un sacchetto di uno, un sacchetto dell'altro, un sacchetto dell'altro. Venivo su, la pesavo in tutta questa chiglia del tale, quella lì del tale, quella lì del tale. E non mi smenteghevo mica, e non mi sbagliavo neanche del sacchetto. E si faceva il giro e conoscevo tutte le famiglie allora, col cavallo e il carretto con quattro ruote. Prima il carretto de lei, i carretti tradizionali, dopo del 59 ho fatto il carretto con le gomme, per non fare rumore, per essere più moderni, no? Era anche a Moliner, il Gobi dal Varon, che ne va in giro a torla sul zaldo e la farina e il formento, e gli aveva il cavallo a capelli e portava la farina. Ecco, facevo il stesso lavoro. E super sti soleri, perché tenevi qualche duni che erano gli uomini, ma più tanti erano a Torzo Oliva, o tenevi lì che era una donna, un pitelot, e lei si solera. Mica si zobassi, gli erano pochi che la preparavano gli zobassi, allora si sono queste scale con questi sacchetti. Se ti ricordi il paesaggio sonoro, che suoni c'erano nel vostro cantoio? Il rumore era... perché la masna che girava la faceva un po' di rumore cupo di gente, e dopo anche le pompe a fare la pressa, che erano le pompe che mettevano la pressione, e ti sentivi subito se una pompa la batteva invece che fare toc toc toc toc toc toc toc toc, magari la faceva toc toc toc, bisogna nettare le valvole. Bisogna essere sempre lì un pochettino con le recce tendere, no? Perché loro hanno che era mica il motore, no? Noi con l'acqua, che aveva un albero sul cima, con sulle polegge, con le cinghie del cuoio, e la veniva zo e la faceva andare all'altra polegge sotto. E anche quelle le faceva, perché a volte bisogna andare sulla peccia, perché sennò le trascorreva magari, no? E allora la peccia sulla cipolegia, la faceva rumore de come la cola, come una roba così che tacca. Ecco, e dopo anche il strisciamento, perché a volte se la ingroseva la cinghia, e allora dopo la sfrega, dopo la si incontra, la faceva anche quel rumore lì. Ecco, sì, come il rumore del torcio era quello, la masna che la gireva, si sentiva queste due rode. Era dentro un rumore un po' monotono e... Invece il locale era caldo, che tipo di temperatura sì, c'era all'interno? No, lì scendeva dentro, si lavorava, non dico canottierano, ma con poca roba, perché era l'ambiente caldo, perché l'olio veniva fuori meglio.